gambe che fanno Giacomo Giacomo, non ho mai capito perché Giacomo e non Pierino. Paura tanto dei serpenti, e delle banche. Allora, no. È più facile incontrare una banca che un serpente. Ho ben presente il maialone perché ogni volta che mi fermo agli autogrill vado lì a schiacciarlo, no? La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Stavo cantando. Non ti nascondere perché ti abbiamo sentito. Cioè, allora, non mettere sotto sforzo la voce perché domani sei da sola. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Poche ore, inaugurazione ufficiale delle Olimpiadi invernali di Sochi, che ancora prima di cominciare si sono già aggiudicate almeno 3 record. Quello delle Olimpiadi più costose, per questi giochi Putin ha speso 50 miliardi di dollari, superando il record di Pechino, che aveva speso per le Olimpiadi estive ben 40 milioni di dollari. Saranno anche le più blindate e saranno anche quelle con lo spazio in tribuna VIP più ampio, tante le poltrone vuote. Letta ha dato conferma della sua presenza, ha scritto anche una lettera che potete leggere oggi sul Corriere, ma molti altri hanno preferito dare forfè. Non ci saranno infatti la Merkel, Cameron, Hollande e Obama. Tra poco ci collegheremo con la nostra Antonella Scott, giornalista e inviata a Sochi per il Sole 24 Ore, che ci racconterà l'atmosfera di Sochi a poche ore dall'inaugurazione. Se avete qualche domanda o qualche curiosità potete approfittare chiamando sin d'ora il nostro numero verde 800 24 00 24. Se invece a Sochi ci andrete di persona nei prossimi giorni, fateci schiattare di invidia e chiamateci 800 24 00 24. ...2.864 atleti provenienti da 88 nazioni... ...in gara ben 113 azzurri, 69 uomini, 44 donne... ...2 settimane di gara, 15 discipline per 98 medaglie... ...sono questi i numeri della 22esima edizione delle Olimpiadi invernali... ...il mondo degli sportivi ha già gli occhi puntati su Sochi... ...è una bella occasione per seguire anche sport più di nicchia... ...tra l'altro ne sono stati inseriti 6... ...il salto con gli sci donne, l'half pipe... sugli sci maschile e femminile, il pattinaggio artistico a squadre, la staffetta mista di biathlon e la gara a squadre nello slittino. Insomma, una vera goduria per gli sportivi da poltrona, specialità in cui siamo davvero campioni. Secondo il rapporto Eurispes, lo sport ci piace e siamo disposti anche a spendere per vederlo, in abbonamenti, alla TV, allo stadio, ma se lo sport dobbiamo praticarlo ci scappa un po' la voglia, rimaniamo in poltrona. Secondo il rapporto, infatti, gli italiani che fanno sport veramente sono il 34%, il che ci scaraventa agli ultimi posti in Europa per salute fisica insieme a Grecia e Portogallo. Allora, cari amici, chiamateci per dirci se siete sportivi da poltrona o sportivi in carne e ossa e raccontateci quale sport seguirete di queste Olimpiadi e quale invece seguite abitualmente dalla vostra poltrona. Calcio, pallavolo, basket, sci, ma raccontateci anche se lo sport che praticate vi dà soddisfazione, che cosa vi ha spinto ad iniziare. E soprattutto, se ancora siete in quella fase di persone che magari lo sport l'hanno smesso per tante ragioni e vogliono riprenderlo, allora approfittate dei consigli dei nostri esperti per risvegliare il campione che è in voi. Essere e benessere. Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita, ma quel che leggi sul giornale e certe volte anche alla sfiga. In linea con noi il dottor Massimo Gualerzi, cardiologo della Fondazione Dognocchi di Parma ed esperto di prevenzione e riabilitazione cardiometabolica all'Università di Parma. Buongiorno e bentornato. Buongiorno a tutti voi, buongiorno Nicoletta. Dottor Gualerzi, le Olimpiadi di Sochi ci daranno una ragione in più per metterci in poltrona. Sa come anche noi sportivi da poltrona dobbiamo allenarci. Sì, insomma, dico, credo che molte passioni per lo sport possono appunto nascere dal desiderio di emulare i campioni che vediamo in televisione. Quindi ben venga lo sport in TV, a patto che poi alla teoria segua la pratica, e come abbiamo visto non sempre così. Ora, visto che questa è anche una trasmissione economica, diciamo, facendo due conti, risulta più economico ormai praticare lo sport piuttosto che vederlo, perché non solo guardarlo con le pay TV costa, ma poi paghiamo anche il prezzo se stiamo troppo sulla poltrona, diciamo un prezzo di salute. Invece, a parte un piccolo investimento iniziale che dobbiamo fare per iniziare un nuovo sport, per l'abbigliamento, magari per iscriversi in palestra, poi abbiamo tutto il guadagno del mondo se appunto dalla poltrona ci alziamo e andiamo a fare sport. Quindi c'è una convenienza economica e anche una convenienza, diciamo, della salute per fare sport. Dottor Gualerzi, lei mi parla di guadagni proprio oggi che non c'è Deborah, allora vogliamo quantificarli? Sì, allora, in termini di guadagno diciamo che più o meno sappiamo che ormai è assodato che 4 ore alla settimana, quindi investiamo 4 ore del nostro tempo ogni 7 giorni di attività fisica, ci fanno risparmiare in malattie e in pillole. È dimostrato infatti che chi fa 4 ore di attività settimanali si ammala di meno e prende meno farmaci. Di che farmaci parliamo? Parliamo di quei farmaci che abbassano ad esempio la glicemia, quelli per il diabete. Parliamo di quei farmaci che migliorano l'umore, quindi fare sport migliora l'umore. Parliamo di quei farmaci che abbassano la pressione, quindi al posto delle pillole prendiamo appunto lo sport. L'unica avvertenza è che oggi appunto parliamo di Olimpiadi invernali e alcune volte fare sport all'aperto quando c'è freddo, se non abbiamo proprio un fisico molto allenato, può essere anche ci possono essere delle controindicazioni, soprattutto per chi soffre di ipertensione, perché sappiamo che cimentarci in un ambiente come può essere quello, diciamo, gelido di questi mesi può avere delle controindicazioni, quindi attenzione al freddo, magari facciamolo al coperto nelle palestre almeno in questi mesi. Quindi attenzione, se siete ipertesi non andate a correre, correte in palestra, questo è il messaggio che vogliamo dare. Ma a proposito di freddo, facciamo un salto a Sochi, dove si trova la nostra Antonella Scott, giornalista inviata a Sochi per il Sole 24 Ore. Ciao Antonella. Buongiorno. Che tempo fa lì? Che freddo fa lì a Sochi? Non fa freddo assolutamente. E questo almeno per quanto riguarda noi che siamo nel villaggio olimpico centrale e sul mare, quindi e il tempo è molto bello, è da giorni che è davvero sereno e si vede, quindi anche si vedono bene le montagne di Krasnaya Poliana dove ci sono le gare di sci, e direi che quindi è sereno anche lì e la temperatura è sui 10 gradi. 10-12 gradi, non va mai giù neanche di notte, sotto lo zero, forse soltanto nel villaggio olimpico montano che è non alla base degli impianti ma direi sui 1000 metri di altezza. Quindi Antonella, clima buono ma che aria tira? A proposito, il villaggio olimpico è molto lontano dal resto, insomma gli atleti sono belli blindati. Sì, questo è vero, è difficile per chi sta qui venire a contatto, rendersi conto di cosa c'è intorno, della vera Russia che è intorno. Nel villaggio l'atmosfera è bella, è buona, almeno questo stando a sentire quello che dicono gli atleti, che si sono trovati molto bene per quanto riguarda i loro gli impianti, quelli dove hanno cominciato ad allenarsi, è tutto molto compatto, molto vicino ai posti in cui dormono e sembra anche bella l'atmosfera tra loro, tra russi e americani, che poi sono quelli che ci teniamo più d'occhio per capire un po' che aria tira. E quello che dicevi è vero, è tutto è molto è blindato, siamo come circondati da una rete, da diverse reti protettive e quindi sicuramente per un atleta che non ha magari il tempo di prendere il trenino e andare a Sochi città o nei villaggi vicino è veramente un'esperienza un po' limitata. Senti, tra poco ci sarà l'inaugurazione, quindi super controlli anche per questo. Sì, certo, è la minaccia del terrorismo che è stata l'incubo di questi giochi, il fatto di averli voluti organizzare proprio a un passo dalla Jihad, dalla rivolta islamica, dalle terre della rivolta islamica contro Mosca. Grozny, la capitale della Cecenia, è circa al di là di queste montagne a un 400 chilometri e come sappiamo i militanti islamici hanno dichiarato guerra a questi giochi perché li ritengono sacrileghi, visto che si svolgono proprio dove ci sono le ossa dei loro martiri, e quindi è difficile pensare che non vogliano perdere l'occasione di umiliare Putin e fare qualche attentato umiliandolo davanti al mondo. Senti Antonella, entriamo nel vivo delle gare. La vendita dei biglietti continua, ma è vero che fino a questo punto è andata un po' a rilento? Sono davvero molto costosi o sono altre le ragioni? I russi avevano promesso che i biglietti sarebbero stati meno cari di quanto non sia stato a Londra, anche se sono di più rispetto a Vancouver, quindi l'altro esempio di Olimpiadi invernali. Giudicate voi, si parte da 13-15 euro, però per gli sport meno richiesti come il curling, che dicono hai ancora tantissimi di biglietti disponibili perché forse non è uno dei più diffusi, e la media è di 160 euro, il prezzo più alto di un biglietto è stato di 1000-1200, e dicono che gli organizzatori hanno detto che ne hanno venduti a gennaio, quindi forse siamo comunque la percentuale è salita, però intorno al 70%. Mi sembra che Vancouver alla fine ne avesse venduti il 98%, quindi sicuramente di più. Senti Anto, lo abbiamo anticipato all'inizio, questa è un'Olimpiade la più costosa, ma non tutto sembra funzionare, ci sono state le polemiche riguardo alle condizioni degli alberghi, tu come sei messa? Com'è la tua stanza? Sei in difficoltà oppure ti trovi bene? Se tu me lo avessi chiesto ieri ti avrei detto che in fondo io ero stata fortunata, perché siamo molto lontane, anche se ci sono delle navette organizzate bene. Questo per quanto riguarda gli alberghi per la stampa, e quelli per gli atleti sono alberghi migliori, quindi non ci sono stati problemi. Il problema è appunto per i giornalisti, soprattutto lo shock è stato arrivare e trovare che molti non erano ancora pronti, quindi diciamo che lo scandalo è che delle Olimpiadi per cui si è speso così tanto, ricordiamo il bilancio, il budget finale è sui 51 miliardi di dollari, non abbiano programmato di finire alberghi che erano stati prenotati un anno fa. Diversi colleghi se sono arrivati si sono trovati senza la stanza perché bisogna prenderla sportivamente, Antonella, come esatto. Si dice. Prima di salutarti, scusa, io volevo chiederti, arriva dall'ABC News la notizia che le autorità locali avrebbero ingaggiato una compagnia privata per eliminare il maggior numero possibile di animali da soci, sì. I cani. Sì. Ecco, tu sì. Vedi qualche cane in giro oppure non ce n'è più traccia? No, ne ho visti. Questo è il problema dei cani randagi è molto forte anche a Mosca, per dire, è facilissimo vederne, ce ne sono tantissimi. Ed è vero che uno degli scandali della preparazione di queste Olimpiadi è stato questo. Ieri c'è stato un incontro tra questa compagnia e i membri del Comitato Olimpico, loro hanno affermato che in realtà nessun animale sano è stato soppresso, e soltanto quelli che potevano essere pericolosi per la salute. Questo è quello che ci dicono. Prendiamola com'è. Io ho visto qualche povero randagio che si aggirava nel villaggio olimpico, quindi sicuramente non tutti, qualcuno è riuscito a scappare. Qualcuno, ecco. Grazie Antonella per essere stata con noi, ci sentiamo presto, buona cerimonia. E buon tifo. Ottenere un risultato alle Olimpiadi fa bene al cuore, tiferemo per i nostri azzurri, ma fa bene anche ai denari. Momenti di gloria e non solo. Per un atleta olimpico, alle medaglie conquistate può corrispondere anche un premio in denaro. A stabilirne il valore per gli azzurri è il CONI. il presidente Giovanni Malagò ha confermato che per i giochi invernali di Sochi 2014 i medagliati del bel paese, si spera numerosi, si vedranno accreditare 140.000 euro per l'oro, 75.000 per l'argento e 50.000 per il bronzo. Dai, allora non ci resta che fare il tifo per i nostri azzurri. 800 24 00 24, sportivi da poltrona, raccontateci quale sport seguirete in occasione delle Olimpiadi di Sochi, quale, per quale atleta farete il tifo, perché guardarli e sostenerli ci fa anche bene. Dottor Gualerzi, lei ha sottolineato i vantaggi della pratica dell'attività sportiva, però anche guardare lo sport alla TV fa bene, perché ci aiuta a svagarci un po', ci rilassa e quindi produciamo endorfini e endorfine, quindi in qualche modo poi ci immedesimiamo anche nell'atleta, chissà mai che ci scatti la voglia di imitarlo. Sì, beh, sicuramente l'emulazione, abbiamo detto, è sempre la cosa più importante, no? Quella che fa scattare spesso le passioni, anche conoscendo sport che non abbiamo mai visto. L'altro aspetto è che raramente ci possiamo mettere rilassati e davanti alla televisione, questo ci fa bene appunto per combattere anche lo stress. D'altra parte poi nelle Olimpiadi manca anche quella componente di tifo così violento come invece quando guardiamo le partite di calcio, che alla fine ci fa stressare in un certo senso, almeno a noi italiani, e quindi guardando le Olimpiadi abbiamo una sorta anche di quel giusto distacco che ci fa apprezzare il gesto sportivo più che la vittoria o la sconfitta. Dottor Gualerzi, intanto abbiamo in linea con noi Ivano, ci chiama da Milano all'800240024. Andiamo a vedere se è uno sportivo da poltrona o uno sportivo in carne e ossa. Buongiorno Ivano. Buongiorno. Eccoci qui. Allora, niente, io volevo dire, vabbè, farò tutti gli sport, nel senso che secondo me chiunque fa sport a certi livelli è da ammirare, qualsiasi sport faccia, perché è veramente difficile. E la mia domanda invece relativamente a me era perché, nonostante io sempre fatto sport, ovviamente a livello amatoriale, adesso ho 49 anni, comunque accuso sempre dei dolori, anche la mattina quando mi alzo, ma non è più come una volta, insomma, sento sempre che... Un po', insomma, scricchiola un po', Ivano. Dottor Gualerzi. Beh, innanzitutto dobbiamo ricordare che lo sport, ne parleremo, è un farmaco e ha degli effetti collaterali. Innanzitutto, se non lo dosiamo bene, uno degli effetti collaterali è quello di usurare, ahimè, di più le articolazioni, quindi è proprio tipico degli sportivi avere più dolori, anzi più ne fanno, più tutto sommato questo è vero. È per quello che lo sport va dosato bene, e d'altra parte gli sport che facciamo più frequentemente, come la corsa, no? Sono proprio quegli sport che logorano di più le ginocchia e la colonna vertebrale, che quindi hanno più riscontro in chi li pratica in questi doloretti, che poi sono tipici la mattina, quando poi ci scaldiamo e ci mettiamo in moto se ne vanno. È logico che consiglio alla radioascoltatore, se questi dolori aumentassero, di fare una valutazione, perché oggi ci sono anche degli integratori che in un certo senso lubrificano le articolazioni e rendono meno impattante ad esempio gli sport come la corsa o come il ciclismo, che comunque hanno un'azione anche questo, anche se non si pensa sulle articolazioni. 800 24 00 24, chiamateci se volete dei consigli, se volete risvegliare lo sportivo che è in voi, non è mai troppo tardi, oppure volete verificare se il vostro impegno è adeguato, non rischia ad esempio di essere eccessivo, perché si punta sempre il dito sugli sportivi da poltrona, ma sarebbe anche importante dedicare attenzione e fare soprattutto un po' di informazione ed educazione nei confronti di chi con lo sport esagera un po' troppo. Dottor Gualerzi, è così? Oggi ci proveremo. Sì, oggi ci troviamo spesso a passare, diciamo, da essere dei poltroni o comunque delle persone che non hanno mai fatto sport a immedesimarci appunto a diventare dei maratoneti, ad esempio incalliti, no? Dimenticandoci che nel mezzo sta, come appunto dicono i proverbi, proprio la virtù. Quindi troppo sport in un certo senso, abbiamo detto appena adesso, degli effetti collaterali, può avere degli effetti collaterali anche dal punto di vista cardiocircolatorio, perché un'eccessiva quantità di sport, soprattutto per chi non è abituato a farlo, aumenta la produzione di quegli ormoni dello stress, il più famoso appunto il cortisolo, che va ad intaccare le nostre difese immunitarie, quindi ci si ammala anche più frequentemente se viene esagerato appunto come quantità e viene liberato troppo cortisolo, oppure diciamo può fare alterare anche gli ormoni sessuali, quelli della felicità, sto parlando del testosterone e della serotonina, che possono avere degli influssi negativi da un eccessivo, diciamo, esecuzione dello sport. Quindi quando viene fatto senza regole lo sport ha appunto degli effetti collaterali, quindi mi raccomando di farlo in modo appropriato e di non passare appunto dalla sedentarietà più assoluta a emulare questi campioni che vediamo alla televisione. Insomma, non facciamoci prendere troppo la mano, ma chiamateci per verificare se tutto questo è già capitato. Il dottor Gualersi ha sicuramente qualche suggerimento, qualche domanda da farvi per aiutarvi a capire se lo sport è troppo, se siete diventati un po' sportivi senza freni. Ne parleremo tra poco di poltrone, di sportivi, di testosterone. Lo faremo anche con Paolo da Bergamo, che ci ha chiamato all'800 24 0024, ma a cui chiedo di accompagnarmi ad ascoltare i mercati e poi di tornare con me. Cuore e denari. Cucuzzolo della montagna con la neve alta così, per la valle noi scenderemo con i piedi un paio di sci dal cucuzzolo della montagna su un cielo tinto col blu. Oggi risvegliamo lo sportivo che c'è in noi, che sia da poltrona o in carne e ossa. Darci lo spunto sono le Olimpiadi di Sochi, che si inaugurano proprio oggi. Dai vostri messaggi vedo che va molto forte tra gli sportivi da poltrona il curling. È una disciplina che piace molto, me lo state scrivendo in tanti al 349-238-6666, mentre Walter dalla provincia di Perugia mi scrive: danza sportiva, sport fantastico, competitivo, è bello da vedere, sport non cruento e praticabile ad ogni età. L'importante è darsi una mossa. Qual è lo sport che seguite e quale quello che praticate? Soprattutto, che cosa ci avete guadagnato? 800 24 0024. Andiamo a Paolo, che ci aspetta da Bergamo, ancora prima dei mercati. Paolo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno Salve. Niente, io sono circa 30 anni che faccio attività sportiva, faccio prevalentemente corse, ho fatto anche triathlon così, però niente, il primo amore non si scorda mai, la corsa. Io niente, ho notato che ultimamente uso sempre il cardiofrequenzimetro, il cuore fa un po' fatica a reagire, cioè nel senso, prima praticamente era sufficiente uno scatto veloce che vedevo che le pulsazioni salivano di conseguenza con l'aumento della velocità. Sì. Invece ora praticamente è molto un po' più lento, cioè fa fatica, arriva dopo, cioè le pulsazioni salgono dopo, mandandomi probabilmente un po' in crisi. Infatti ho visto che ultimamente le prestazioni stanno un po' calando, penso sia per quello. Niente, se volevo sapere se c'era qualche possibilità per risvegliarlo un attimino. Oppure Paolo, lei ha lo specialista giusto per lei, è il dottor Massimo Gualersi, che naturalmente in linea con noi rimarrà con noi sino al termine della puntata. Dottor Gualersi, questo cuore che arriva dopo. Sì, questa è una conseguenza molto frequente. Allora, premesso che quello che consiglio, al di là di una consulenza telefonica, se questo è un problema andrebbe valutato un elettrocardiogramma, magari inoltre intanto che fa attività sportiva, per andare a vedere se veramente il cuore non sale oppure ci sono dei battiti che non vengono rilevati al polso, tipo le strasistoli, che possono, diciamo, rendere più torpida la risposta, almeno quella che sentiamo, ma in realtà il nostro cuore sta andando sullo stesso. Al di là di questa cosa può succedere quando il troppo allenamento fa questo brutto scherzo. Quando ci alleniamo troppo, quando non ci diamo le pause giuste, possiamo trovare due situazioni: o una frequenza eccessiva, quindi la frequenza che si alza troppo, oppure quella che ha una risposta troppo torrida, cioè che non sale durante lo sforzo. Diciamo che un modo per svegliarla è, da una parte, riposare, cioè non insistere, perché in questo momento il cuore ci sta dicendo che non è in grado di supportare magari i carichi che gli stiamo fornendo. E dall'altra invece dedicare qualche allenamento in più all'interval training, cioè per sbloccare in un certo senso questa frequenza è giusto, invece di fare delle corse sempre alla stessa velocità e allo stesso ritmo, alternare proprio il ritmo andando 2 minuti veloce e 2 minuti 20, in modo tale che automaticamente aiutiamo, accompagniamo il cuore a sbloccarsi, quindi andare un po' più velocemente, un po' più piano. Però ripeto, questa condizione è tipica normalmente di chi si dà poco riposo e quindi può essere un segno di iperallenamento. Dottor Gualersi, abbiamo detto né troppo né poco. prezzo, vale per tutto, anche per l'attività sportiva. Chi esagera, lei lo ha anticipato, rischia di pagare un prezzo abbastanza alto, ma in sostanza cosa significa esagerare? Perché sa che poi uno si appassiona, lo sport, l'attività sportiva produce endorfine e diventiamo quasi dipendenti dall'allenamento. Quando, quali sono i segnali che mi fanno capire che l'attività sportiva diventa eccessiva per me, il carico è troppo pesante? Un indicatore ce l'ha suggerito il nostro ascoltatore di Bergamo, il cuore che sembra non tenere dietro. Quali sono gli altri? Ma un indicatore molto semplice è proprio la non sentire o non sentire il bisogno di riposarsi, no? Quando entriamo in questo vortice, che tra l'altro noi auspichiamo, della produzione di endorfine, ma quando questo diventa proprio una dipendenza, stiamo male quando non facciamo sport, che da una parte bene perché segna una buona abitudine, dall'altra ricordiamoci sempre che anche gli atleti, quelli che vedremo in televisione in questi giorni, hanno diverse ore di riposo al giorno. Noi spesso facciamo sport e poi lavoriamo 8 ore al giorno e ritagliamo appunto lo sport all'interno di una giornata già piena. È molto importante ricordarsi di questo, perché anche gli atleti, ricordo, si riposano diverse ore. Il riposo è fondamentale. Quando non sentiamo il desiderio di riposare un giorno, le condizioni sono due: o ci alleniamo troppo poco e quindi dobbiamo aumentare i carichi, perché è normale che quando si fa un giusto allenamento il giorno dopo ci si senta in dovere o comunque si senta il bisogno di riposarsi. Oppure stiamo andando in quella forma di overallenamento che ci fa, diciamo, non più percepire i nostri reali bisogni, e poi magari si manifestano o hanno, diciamo, come conseguenza quello, come diceva prima il radioascoltatore, di non avere una corretta risposta di frequenza cardiaca allo sforzo. Quindi dobbiamo tenere e dobbiamo sentire il desiderio di riposarsi dopo esserci allenati. Infatti i corretti allenamenti sono 3-4 alla settimana, intercalati appunto da un giorno di riposo dopo l'allenamento. Il mio sport preferito, ci scrive un ascoltatore, fare tanto giardinaggio e potature alberi, mi rinforza i muscoli e mi mantiene in forma a 40 anni, senza esagerare, se no mi strapazzo. Uno dei primi ascoltatori che mi ha mandato un messaggio, devo dire ancora prima che iniziasse la trasmissione, si firma solamente con l'iniziale del suo nome, che è M. Io sono un campione di sollevamento del telecomando. 800 24 00 24, spazio alle vostre telefonate. Ma tra poco poi vorrei tornare, dottor Gualerzi, ci ha messo un po' la pulce nell'orecchio riguardo a un'attività fisica troppo impegnativa che potrebbe in qualche modo anche avere delle conseguenze sulla produzione di ormoni, tra cui anche del testosterone. Sono già arrivati tanti messaggi di ascoltatori maschi che vorrebbero saperne di più. In realtà il testosterone interesserebbe anche noi donne, ne parleremo tra poco. Intanto vado da Daniela, che ci chiama da Varese, da Anna Maria da Bologna e Giovanni da Palermo. Daniela, buongiorno. Buongiorno. Io volevo un'informazione, ho partorito da circa 2 settimane, sì. E premetto che ho sempre fatto sport, corsa, nuoto a livello amatoriale, però palestra, yoga, mi è sempre piaciuto tantissimo. Adesso volevo sapere dopo quanto tempo si può riniziare dopo il parto per far sport, e quali sono gli sport più indicati, e se fare sport può influire, perché sto allattando al seno, volevo sapere. Fa molto bene, Daniela. È maschio o femmina? È una femmina. Evviva, Daniela. Dottor Gualerzi, quando Daniela può riprendere a fare attività sportiva? Allora, le attività molto intense, diciamo che sono da iniziare dopo 4-5 mesi, diciamo, del parto, anche perché un'attività troppo intensa potrebbe andare a contrastare sempre per via degli ormoni la lattazione, quindi potrebbe andare a bloccare, no, gli ormoni che invece stimolano la produzione di latte. Quindi evitare degli sport troppo intensi, ma già da oggi lei può andare a camminare, anche camminare in salita, fare delle belle camminate, perché quando rimaniamo all'interno dei sforzi di tipo lieve, lieve moderato, non c'è nessuna controindicazione anche per le donne che stanno allattando, nel rispetto eventuale di parto cesareo, che adesso non so se è il caso di questa radioascoltatrice che ci sia stato, però da parto naturale, diciamo, una volta che eventuali punti o eventuali, diciamo, situazioni si sono rimarginate, ecco che poi è possibile già iniziare a fare le sue passeggiate anche una 40 minuti al giorno, purché non si esageri proprio per colpa di questi ormoni che nell'esagerazione troverebbe uno stimolo negativo all'allattamento, andrebbe a bloccare l'allattamento. Ecco. E se la nostra ascoltatrice, come le altre neomamme all'ascolto, volessero magari fare ginnastica in gruppo, vi ricordo che proprio sono stati i nostri ospiti, ancora nella versione di Essere Benessere, queste due giovani mamme che hanno ideato un programma proprio tutto dedicato alle mamme, e si chiama Mamma Fit. Sono semplici esercizi che vengono insegnate alle mamme, che portano anche in giro i loro bambini al parco nel passeggino, una cosa molto carina che sta prendendo sempre più piede, a proposito di movimenti, a grande successo. Giovanni ci chiama da Palermo, buongiorno. Buongiorno a voi, io ho un bambino di 10 anni, sì, che da 5 fa nuoto, e da 3, perché lui si è innamorato lì facendo un corso lì di basket a scuola, ha visto i bambini che giocavano a basket, si è innamorato di basket, e quindi anziché fare 3 volte alla settimana nuoto, faccio fare il lunedì e il mercoledì nuoto, e il martedì e il giovedì il basket. E c'è chi dice che è meglio, perché integrare due sport va meglio, e c'è chi dice che fa male. Io volevo un consiglio dal dottor Massimo. Sì, grazie Giovanni. Tra l'altro, se fate praticare, i vostri ragazzi praticano sport, rimanete in collegamento con noi, perché sicuramente ci guadagna la loro salute, bisogna investire in prevenzione, ma si possono anche ottenere delle detrazioni fiscali, e ne parleremo nel corso della trasmissione. Quindi se avete delle domande, sappiate che affronteremo questo tema a partire dalle 12 800 24 00 24. Dottor Gualerzi, il ragazzino di Giovanni che vive a Palermo e quindi si divide tra nuoto e basket, fa bene, fa male, troppo? Allora, diciamo che io combatto sempre, appunto parlando anche ai pediatri molto spesso, sul fatto che i bambini sono spesso sedentari, purtroppo, quindi ben venga lo sport. Ora, a 10 anni l'ideale sarebbe fare non più di 3 allenamenti alla settimana, proprio perché diciamo 4 possono essere troppo pesanti. L'integrazione fra due sport è corretta, soprattutto integrare il nuoto a uno sport di squadra. Il nuoto è uno sport, diciamo, solitario, no? Quando si nuota, e fa molto bene, soprattutto dal punto di vista fisico, ma non aiuta in un bambino a sviluppare quei problemi, diciamo, di risoluzione o comunque di compartecipazione che si possono avere durante un gioco di squadra. Quindi ben venga il gioco di squadra, ben venga il nuoto. Io, se devo dare un consiglio al radioascoltatore, farei una volta il nuoto e 2 volte basket, e 3 volte a 10 anni credo che sia il numero corretto di allenamenti da proporre a un bambino, tenendo conto che spesso poi questi bambini vanno a catechismo, vanno a magari... La loro agenda diventa troppo affollata, è vero. Hanno una vita dopo troppo impegnativa. 800 24 00 24, noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. Subito dopo torneremo un attimo sul testosterone, ormone che sta diventando per gli americani un chiodo fisso e per le aziende farmaceutiche una straordinaria opportunità di guadagno, un mercato che sembra destinato a non conoscere crisi, dato che negli ultimi decenni le ricette di farmaci e di integratori alimentari a base di questo ormone sono triplicate. Un movimento che ha insospettato la Food and Drug Administration, che ha aperto un'inchiesta. Il troppo esercizio fisico potrebbe ridurre il livello del testosterone. Cuore e denari. Eccoci qua, veloci veloci, siamo tornati insieme, risvegliamo lo sportivo che c'è in noi. Se siete sportivi però da poltrona, chiamateci all'800 24 00 24. Ma oggi vogliamo parlare anche di dei vantaggi di un'attività sportiva moderata. L'attività sportiva infatti non deve essere mai eccessiva, perché i rischi ci sono. Anna Maria da Bologna, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua, che mi dice? Ma io sono un'ascoltatrice 53enne, quasi 54enne, amante dello sport, ne ho sempre fatto tanto, ma adesso naturalmente ho rallentato. Non lo faccio più di 2 volte alla settimana, faccio un po' di tutto, corro soprattutto, pure sì, nuoto, bicicletta, andavo anche sui pattini, però ultimamente anche col lavoro che faccio mi hanno riscontrato un paio di ernie alla schiena, non sono conclamate, però comunque mi hanno... È sceso dai pattini. sono scesa dai pazzi, quello ho rinunciato purtroppo, però mi piacerebbe continuare anche a correre, anche poco, comunque in condizioni ottimali, e nuotare e andare in bici. Vorrei continuare fino, diciamo, a più tardi possibile. Cosa dice il dottore? Cosa dice il dottore? Dottor Gualerzi, un invito a nozze questo per lei. Dico una cosa e mi ho lo spunto per parlare di un argomento che è questo. Diciamo che può fare anche un po' di più, nel senso che ricordiamo sempre le 4 ore settimanali, e allenarsi 2 volte forse poco, quindi non esageriamo, ma neanche facciamo troppo poco. L'altra cosa che volevo dire era questa: spesso andiamo a fare sport, quindi andiamo a correre, a pattinare, andiamo a andare in bicicletta, a nuotare. Ricordiamoci sempre che è fondamentale la ginnastica propedeutica, proprio lo dico per l'ernia appunto all'arachide che diceva appunto la radioascoltatrice. Quindi è molto importante andare sì a correre in bicicletta, a fare nuoto, ma far precedere questi sport almeno una seduta o due, sia di stretching ma sia di ginnastica specifica, perché quando abbiamo un'impalcatura, cioè un apparato scheletrico muscolare forte, ben tonico, questi traumi e queste degenerazioni o questi incidenti sono meno frequenti. Quindi ricordiamoci che lo sport non è solamente andare e fare la nostra esperienza esterna correndo, ma è anche quello di mettersi di buona lena, investire sul nostro telaio, quindi sul nostro fisico, e fare un po' di attività, di movimenti che possano predisporlo per continuarci ad accompagnare, per far sport tutta la vita. Quindi se vogliamo continuare il più possibile dobbiamo mantenere il nostro organismo, il nostro scheletro, i nostri muscoli, facendo della ginnastica specifica che ci aiuta appunto ad evitare quei traumatismi che appunto sono stati detti dalla radioascoltatrice. E dobbiamo anche, dottor Gualerzi, di questo ci occuperemo a partire da mezzogiorno, oltre a fare l'attività sportiva, fisica adeguata, dobbiamo anche fornire il nostro organismo del carburante giusto. 800 24 00 24, se siete sportivi e avete qualche dubbio, qualche perplessità sulla vostra dieta. In America la vendita di farmaci e integratori a base di testosterone è stata triplicata negli ultimi 10 anni. Noi ritorniamo su questa notizia che avete letto sui giornali. Gli uomini ricorrono a questi prodotti per essere più brillanti sotto le lenzuole, ma c'è anche l'altro effetto del testosterone che alluzza, e mi riferisco alla capacità di questo ormone di potenziare i muscoli. Il dottor Gualerzi ha detto: attenzione, un'attività fisica eccessiva può ridurre il livello di questo ormone, chiamato anche ormone del desiderio, un ormone che non è solo maschile, lo produciamo anche noi donne. Cerchiamo di aprire non un'indagine come ha fatto la Food and Drug Administration, ma una parentesi per saperne di più, e lo facciamo insieme al professor Bruno Giammusso, direttore dell'unità di andrologia al Policlinico Morgagni di Catania. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta. Professore, iniziamo a presentarlo. Il testosterone non è un ormone solo maschile, anche noi donne lo produciamo, anche se in quantità inferiore. Viene chiamato l'ormone del desiderio, ma le sue funzioni non si limitano solo a questo. È chiamato l'ormone del desiderio perché tradizionalmente la carenza di testosterone si manifesta con una perdita dell'appetito sessuale, però è un ormone che ha tante altre proprietà fondamentali, in particolare nel maschio, è responsabile di una buona mineralizzazione delle ossa, del tono muscolare, ma anche l'attività cognitiva, cioè la memoria, la qualità del sonno risentono della presenza di questo ormone. Quindi diciamo che è un ormone molto importante, non soltanto per la sessualità ma per la salute in generale. Professore, con gli anni un calo di testosterone è fisiologico, ma oltre agli anni quali sono le cause che possono contribuire a ridurne il livello? Lo stress, i chili di troppo, alcuni farmaci? Esattamente, in primo luogo l'obesità, i chili di troppo. Consideriamo che il tessuto grasso, l'adipe, contiene un enzima che è in grado di degradare il testosterone a estrogeno, cioè di trasformare l'ormone maschile in ormone femminile. Quindi è chiaro che il sovrappeso ridurrà i livelli di testosterone e farà aumentare quelli dell'ormone femminile. Anche condizioni di stress, ma le condizioni di stress hanno degli effetti temporanei, transitori sui livelli di testosterone. Poi ci sono alcune malattie, per esempio il diabete. Nei soggetti diabetici i livelli di testosterone sono mediamente più bassi rispetto alla popolazione non diabetica. Professore, siamo partiti con la notizia di questa inchiesta aperta dalla Food and Drug Administration perché il mercato di prodotti integratori e farmaci a base di testosterone è aumentato in modo significativo negli ultimi 10 anni. I medici però avvertono che il rischio di prendere questi integratori è molto alto, potrebbe rimetterci anche il cuore. Sì, è vero. Particolarmente negli Stati Uniti è passata un'idea, un fatto culturale assolutamente sbagliato, che più ce n'è testosterone e meglio è dal punto di vista della virilità. Questo non è vero. È necessario che il testosterone stia a livelli normali, fisiologici, superati i quali è inutile darne di più. Di conseguenza è importante che in condizioni di carenza il testosterone venga aggiunto con una opportuna terapia che ne mantenga i livelli normali. Questo è fondamentale. Ma darne di più, cioè cercare di sovrastimolare per ottenere degli effetti aggiuntivi, invece può dare effetti collaterali. In particolare uno degli effetti dell'eccesso di testosterone è l'aumento del numero di globuli rossi nel sangue, quindi un aumento della viscosità del sangue. Questa è la causa principale di problemi cardiocircolatori nei soggetti che eccedono col testosterone. Quindi non eccedete, attenzione anche con l'attività fisica che sembra riduca il livello di questo ormone. Grazie professor Giammusso per essere stato con noi. Grazie a voi. Cuore e denari. Una camminata al giorno toglie il medico di torno. Così, parafrasando un vecchio adagio, si potrebbero riassumere i vantaggi di una sana e regolare attività fisica. Con una raccomandazione: vietato esagerare. Di questo stiamo parlando col dottor Massimo Gualerzi, che è in linea con noi. Buongiorno dottor Gualerzi. Buongiorno. Vogliamo fare una posologia? Se l'attività fisica è un, come spesso dite voi medici, un farmaco magnifico, naturale, che ha tanti vantaggi, che agisce anche sul nostro umore, apriamo il bugiardino, andiamo a leggere la posologia. Sì, allora diciamo che ormai siamo abbastanza sicuri nell'affermare che per qualsiasi cosa, no, per qualsiasi bisogno è giusto fare almeno 4 ore di attività alla settimana. Poi a seconda dei bisogni abbiamo degli obiettivi che vogliamo raggiungere, ci poniamo invece una posologia un po' differente, cioè mantenendo le 4 ore diciamo che per dimagrire la prima regola è che non dobbiamo fare solo attività aerobica, quindi non solo ad esempio attività di camminare o di corsa, ma dobbiamo fare anche un'attività di potenziamento muscolare, perché ricordiamo che più massa magra c'è, quindi più i muscoli sono tonici, più siamo in grado di alzare il metabolismo basale, quindi di bruciare anche quando stiamo fermi, quindi più è tonica la nostra muscolatura, più bruciamo e quindi più aumenta il metabolismo. E quando sempre per dimagrire vogliamo lavorare in modo aerobico, ricordiamo di farlo almeno un'ora consecutiva a un ritmo medio, cioè non la camminata stile shopping, ma una camminata un pochino più sostenuta, ad esempio quella che può essere mimata da una camminata in salita, cioè l'intensità che facciamo quando facciamo una camminata in una, diciamo, salita. Se vogliamo invece agire sullo stress, quindi facciamo attività fisica solo per toglierci le tensioni, ecco, più di una vera posologia consiglio di cercare sport divertenti, magari fatti anche in gruppo, come potrebbe essere il ballo piuttosto che dei corsi in palestra, e magari in ambienti piacevoli, che possono essere all'aria aperta, ma anche in ambienti tipo, appunto, come detto prima, palestra, che siano confortevoli e che ci rilassino nel mentre che li stiamo facendo. Per il cuore invece la passione, mi sentirei di consigliare, così come tutta la comunità scientifica, l'interval training, cioè quello sport che prevede l'alternarsi di esercizi più intensi a esercizi meno intensi, quindi ad esempio possiamo fare, se stiamo correndo, un pezzo 2-3 minuti a più alta intensità, intervallati da 4-5 minuti a più bassa intensità, oppure possiamo fare 2-3 minuti di corsa sul tappeto, intervallarli con 2-3 esercizi muscolari e poi ritornare sul tappeto, sempre per un totale di 45 minuti, un'ora di allenamento. Infine chiudo che per ridurre invece la glicemia, quindi per in un certo senso migliorare la sensibilità all'insulina e quindi per antagonizzare il diabete, per evitare di diventarlo o comunque per trattare la glicemia per chi già è diabetico, diciamo che va bene un po' tutto, perché l'importante è muoversi, quindi qualsiasi cosa facciamo contribuisce a ridurre la glicemia. Quindi per quanto riguarda il diabete e la glicemia, non ci sono vere regole, basta muoversi che fa sempre bene, perché la glicemia e lo zucchero è il principale mezzo di combustione, quindi ogni volta ci muoviamo, lo consumiamo, e quindi ogni cosa facciamo va in favore di ridurre la prevalenza e l'incidenza del diabete. Dottor Gualerzi, quindi fissiamo l'obiettivo, e anche sulla nostra pagina troverete le indicazioni del dottor Gualerzi, che vi consiglia l'attività adeguata. Ma dobbiamo naturalmente anche rifornire il nostro organismo del carburante giusto, ne parliamo tra poco, ma diamo spazio ai nostri ascoltatori. Questa è proprio la parte del programma in cui vi invitiamo a saltare, anche questo è un movimento, la barriera rosa all'800 24 00 24, e soprattutto se avete figli iniziate a chiamare, perché ci sono delle detrazioni possibili. Ci raggiungerà il nostro esperto, che ci spiegherà cosa fare, quali documenti richiedere, quanto possiamo detrarre, chi può farlo. Luciano dalla provincia di Brescia, Francesco da Pisa e Alberto da Verona. Dottor Gualerzi, facciamo subito un'indigestione di domande. Luciano, buongiorno. Sì, buongiorno. Innanzitutto buona giornata a lei, Nicoletta Carbone e dottor Gualerzi. Allora, grazie Luciano. Prego. Io premetto che ho 62 anni. Direi che ormai ho già detto tutto il dottore, però volevo fare due considerazioni. Io non sono un atleta né un assiduo, ecco, premetto, lo faccio così, giorno sì, giorno no. Io in media faccio i 13, 14, 15 chilometri al giorno, quando riesco a farli, però non camminando, cioè, premetto, non camminando lentamente, ma neanche correndo. Cioè io mi tengo la media dei miei 6 chilometri e mezzo, 7 all'ora. Sì. E senza arrivare, diciamo, di stravolto di stanchezza. A me viene da sorridere, perché nel percorso che io faccio, un percorso collinare, 9 persone su 10 le vedo strasudate, affaticatissime, e nemmeno ti salutano, perché sono talmente stravolto. Invece, che non Luciano, volta. Lei è fresco come una rosa, 6 o 7 chilometri in un'oretta. Sì, io diciamo che quando arrivo, innanzitutto non mi sento il cuore in gola, prima cosa. Anch'io poi naturalmente quando arrivo sono strasudato, però fisicamente mi faccio poi una bella doccia calda e via. Io mi sento benissimo per tutta la giornata. Grazie Luciano. Dottor Gualerzi, Luciano ci piace? Promosso? Ci piace molto, diciamo che è proprio da anche perché si gode medica. Un po' la vita intanto che cammina, guarda, può salutare qualcuno, insomma. Sì, diciamo, no? Che appunto hai detto percorso collinare, quindi camminando fa il numero di passi giusto, all'intensità giusta, diciamo che è proprio da linea guida. Sempre per dare uno stimolo, diciamo che fare sempre, tutte le volte, lo stesso percorso, la stessa distanza, la stessa velocità è poco allenante, quindi in termini di miglioramenti, no, se vogliamo porci degli obiettivi anche per migliorare ulteriormente, è poco stimolante, ma questo, quello che fa appunto il nostro radioascoltatore, è proprio quello che viene consigliato nelle linee guida da tutti i medici. Insomma, Luciano veramente è da manuale. Vediamo come se la cava Francesco da Pisa, e sentiamo anche subito dopo Alberto da Verona. Francesco, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, voglio anche ringraziare il professore per la bella trasmissione. Allora, io faccio 3 sessioni di allenamento alla settimana, anticipando. Prima faccio una sessione di potenziamento muscolare, no? Addominali, sì. Flessioni, sollevamenti e glutei. Per scolpire un po' il muscolo, no Francesco? Sì. Anche diciamo su, sì. Dai. E poi vado a correre con una tabella tra una lunghezza tra i 5 km e i 10 km. La mia domanda era, volevo sapere se è più corretto l'abbonamento nell'ordine potenziamento e poi corsa, o viceversa, o anche se metterli in giornate separate. Ecco, qua è proprio una super raffinatezza, dottor Gualerzi. Sì, diciamo che li possiamo mettere insieme, e va bene prima il potenziamento e poi l'attività aerobica, se non superiamo l'ora e un quarto d'allenamento. Quando invece vogliamo fare un pochino più di allenamento, è meglio separarle, quindi magari possiamo fare il potenziamento e così lo possiamo, non so, dedicare una giornata solo a quello, un'oretta, e l'altro giorno correre invece un'ora. Quindi se li mettiamo insieme, diciamo, il consiglio di non far diventare degli allenamenti troppo lunghi, se no rischiamo di allenarci 2 ore per fare tutte e due le cose, diventa un po' impegnativo e necessita poi degli accorgimenti particolari, cioè magari un'integrazione di un certo tipo piuttosto che un'alimentazione di un certo tipo. Ecco, parleremo naturalmente, dottor Gualerzi, mi scusi se l'ho interrotta, ma volevo lanciare questo stimolo ai nostri ascoltatori per invitarli a chiamare, anche di integrazione, integrazioni sì, integrazioni no, ma soprattutto anche di dieta, perché ci sono delle persone che allenandosi ricorrono a degli integratori, lo fanno magari seguendo il consiglio dell'amico con cui vanno a correre o del compagno di palestra, vogliono magari potenziare la massa muscolare o reintegrare i sali minerali persi. Ci sono persone che seguono una dieta particolare, si preparano nell'allenamento subito prima della gara, privilegiando alcuni alimenti, togliendone altri. Siete sicuri, tutto a posto, di fare tutto per bene? Qualche dubbio? 800 24 00 24, andiamo ad Alberto, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie Alberto. Allora, al contrario dei miei precedenti, le persone che mi hanno preceduto, io sono una persona che ha fatto sport fino a 37 anni, ho 47 anni, e poi da 10 anni per un acciacchi vari alla schiena, qualche problema al ginocchio, ho sempre fatto calcio, premesso. Sì. E quindi chiedevo, perché ora sento veramente il desiderio di ricominciare, di staccarmi dal divano, dalla vita un po' tra il lavoro, un po' sì, tutto che insomma, mi hanno distratto. Si è risvegliato lo sportivo. Però giustamente dopo 10 anni di attività, Alberto, dottor Gualerzi, dice da che cosa si comincia? Sì, allora questo è un comune denominatore di molte persone che hanno fatto uno sport di squadra come il calcio, perché poi una volta smesso non trovano più lo stimolo no adrenalinico che c'era nello sport di squadra, nella squadra, nella vittoria, via dicendo. Quindi è un comune, diciamo, denominatore. Il consiglio è quello del buon senso, cioè di ricominciare gradualmente partendo dalla tonificazione muscolare, quindi non mettersi a andare a correre domani mattina un'ora, perché anche se la sua testa glielo consentirebbe, il suo fisico no, e quindi andare a rioliare la muscolatura, le articolazioni, facendo una buona ginnastica propedeutica, affidandosi magari a un personal trainer, a qualcuno che possa seguirlo almeno nelle prime fasi per indicargli il modo appropriato per risvegliare tutti i muscoli. Una volta che abbiamo risvegliato i muscoli possiamo introdurre delle sezioni di attività aerobica sempre più prolungate fino a tornare a fare un allenamento come tutti gli altri, perché ancora è molto giovane e quindi non si deve porre dei limiti fin dove appunto ha tempo e voglia. Comunque mi raccomando di ricominciare risvegliando la muscolatura e non andando immediatamente a correre, perché questo sarebbe un errore gravissimo che comporterebbe poi dei rischi a livello proprio articolare o osteoarticolare. Il golf, e di conseguenza ci scrive un ascoltatore, faccio golf e ci scrive Roberto, di conseguenza cammino molto, va bene? Il golf è un bello sport, anche qui ricordo la propedeutica, perché uno che gioca solamente a golf e non cura la schiena, visto che è un movimento anche abbastanza importante di torsione e di coinvolgimento di molti muscoli, rischia poi per avere paradossalmente dei traumatismi che limitano la performance e la possibilità di farlo. Quindi il golf è un buono sport, soprattutto se non si prende l'automobilina per andare da una buca all'altra, perché c'è la passeggiata, il bell'ambiente, la compagnia e soprattutto chi lo fa bene fa una propedeutica, no? Una ginnastica che consente di tenere allenate in forma i muscoli coinvolti, cioè praticamente tutti anche nel golf. Dottor Gualerzi, l'avevamo anticipato, ci sono delle persone che ricorrono ad integratori, spesso suggeriti dal compagno di corsa o dal compagno di palestra. Vogliamo dare qualche indicazione, qualche raccomandazione? Sì, io direi innanzitutto di stare abbastanza attenti agli integratori fai da te. Oggi si trova sul mercato di tutto, abbiamo parlato appunto anche prima di testosterone, che ricordo essere un integratore da prescrivere, che può prescrivere solamente il medico, e da dare solamente nei casi in cui c'è una carenza vera e dimostrata di testosterone, perché prendere testosterone per chi non ha una carenza può creare solo dei danni e non dei benefici. Così come tutti gli altri integratori si rischia di spendere dei soldi e di non ottenere l'obiettivo giusto. Diciamo, innanzitutto uno deve capire se ha delle carenze, se ha dei bisogni o che alimentazione fa, all'interno poi dell'alimentazione, e devo dire che l'alimentazione quasi sempre copre tutti i fabbisogni, ma se non li coprisse andare a inserire qualche integratore, ma questo dipende dallo sport che uno fa, quindi se uno fa sport più di resistenza o più aerobici sceglieremo un integratore piuttosto che un altro, e il consiglio sempre di farsi appunto consigliare non dal compagno o dall'amico al quale magari quell'integratore ha fatto bene, perché non è detto assolutamente che dato lo stesso integratore a due persone diverse abbia lo stesso effetto, ma soprattutto abbia l'utilità, no, uguale. Allora, intanto che nell'attesa delle vostre chiamate 800 24 00 24, perché vi invito a fare un movimento saltando la barriera rosa, voglio salutare Luca De Stefani, esperto in materia fiscale per il Sole 24 Ore. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Vogliamo parlare di una delle agevolazioni fiscali più gradite delle famiglie italiane, che è quella che ci permette di detrarre l'attività sportiva praticata dai nostri figli. Ma evidentemente ci saranno delle indicazioni precise. Ci vuole spiegare come fare e chi può approfittarne? Sì, possono beneficiare di questa detrazione fiscale i genitori o comunque tutti i soggetti che hanno i figli o i propri familiari a carico. L'importante è che lo sportivo sia di un'età compresa tra i 5 e i 18 anni, sia iscritto ad una palestra, un'associazione sportiva dilettantistica o una piscina, e che si acquisisca il documento comprovante questa spesa, che può essere la fattura, la ricevuta o una quietanza vera e propria. Questo documento deve contenere il dato della palestra, il dato dello sport praticato, l'importo e il codice fiscale del soggetto che ha pagato questa spesa. Poi, una volta acquisito questo documento, appunto per l'attività sportiva fatta dai propri figli o anche nel caso dei nonni, ad esempio dei propri nipoti, è necessario... Mi scusi, quindi se i nonni hanno i nipoti a carico possono fare questa detrazione? Ecco, quindi è una bella notizia per i nonni, grazie, mi scusi. Perché la normativa parla appunto di familiari in generale e non solamente quindi di figli, ma di familiari a carico. Se i nonni hanno appunto i nipoti a carico, possono pagare queste iscrizioni per l'abbonamento annuale oppure per l'iscrizione annuale nella palestra per poter detrarre questa spesa. È necessario poi naturalmente indicare in dichiarazione questa spesa e la detrazione è pari al 19% per un importo massimo di spesa di 210 euro, quindi all'anno, 210 euro per il 19%, abbiamo 40 euro di detrazione fiscale, quindi 40 euro di sconto dalle imposte, dall'IRPEF direttamente. Allora, ricordiamo che la fascia d'età è compresa tra i 5 e i 18 anni. Certamente. Ascoltatori, mi stanno scrivendo se questo, ci possono essere delle detrazioni anche per chi frequenta scuole di musica o fa attività culturali, ma mi sembra no, che no. Purtroppo no. Solo diciamo sport. Però per la ginnastica correttiva, la ginnastica posturale o riabilitativa è possibile considerare queste ricevute, queste fatture per spese relative alle iscrizioni a queste attività come spese mediche, e quindi se vi è la prescrizione medica sì, che denota appunto un bisogno medico di fare questo tipo di attività e se la prestazione viene effettuata in scuole o comunque in palestre autorizzate con l'assistenza di delle persone specializzate a questo, quindi dei fisioterapisti veri e propri, è possibile considerare questi documenti come spesa medica detraibile anche questo al 19% se superano l'importo di 229 euro. Abbiamo segnato tutto. Grazie a Luca De Stefani, esperto in materia fiscale per il Sole 24 Ore, per essere stato con noi. Grazie. Buona giornata. Grazie, arrivederci a tutti. Dottor Gualerzi, abbiamo alcuni ascoltatori che stanno ancora aspettando le nostre risposte, non riusciamo magari a rispondere a tutti e quindi vi invitiamo a scriverci una mail a Cuore Denari. Come sempre, non potendo rispondere a tutti, vi invitiamo e vi ricordiamo che gli sportelli di Cuore Denari sono aperti anche al pomeriggio. Velocemente sentiamo Laura dalla provincia di Milano. Laura, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno. Io telefono per portare la mia esperienza di attività col mio cane, sì. Non soltanto passeggiate ma anche agility, obedience, cioè tante persone hanno i cani e cioè non dovrebbero mai perdere le opportunità di fare anche attività agonistica col proprio cane, perché è veramente bello. Perché è allenante sia per il cane che per il bipede. Laura, grazie per questo suggerimento. Io tante volte al dottor Massimo Gualerzi gli dicevo, a proposito di camminata, camminata a passo di cane, che quello è il ritmo che mi dà il mio cane, la grande Emma. Dottor Gualerzi, vede che poi alla fine i cani allenano. Il mio è un cane magnifico, grande, no, metterò la foto su Facebook. Non metti in dubbio, dipende, diciamo, che passo al cane, nel senso che appunto i cani che fanno agility, sono un esperto, perché anch'io avevo un cane, ahimè, che faceva agility, e quindi questa è un'attività assolutamente molto allenante anche per il padrone. Molto spesso, diciamo, ci sono cani che per stazza e per dimensioni appunto passeggiano, ma non sono in grado di fare, diciamo, delle corse, vanno piano, e quindi questo è un pochino meno allenante, ricordiamo questo. Quindi non è sufficiente avere un cane per dire che portandolo fuori sarebbe bisogno. Va bene, su, stavamo scherzando, però con agility sì. Grazie dottor Gualerzi per essere stato con noi, buonissima giornata. Grazie a tutti voi. E noi torniamo, perché ci sarà naturalmente anche Deborah lunedì, vi aspettiamo per qualunque dubbio, necessità o anche solamente per parlare con noi. Scriveteci a Cuore Denari. Buonissima giornata.